YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. E inizia la terza ora di questo sabato del villaggio di Pasqua. Buonasera Daniele. Buonasera Marta, come stai? Beh sì, è stata un pomeriggio tosto, però mi piace essere in radio anche per tenere compagnia a chi sta viaggiando magari nei giorni di Pasqua. Sarò sempre qua in questi giorni. Allora, noi a RadioTube da sempre mostriamo l'imperdibile, l'imperdibilissimo di quello che abbiamo visto sulla rete grazie ai video che sono circolati. Questa settimana iniziamo con una roba del tutto perdibilissima che avremmo voluto magari, sì, non mostrare mai, ma che sempre più spesso invece vediamo proprio sui nostri social network, tra video veri, video presunti, video sì, falsi, devo dire fatti, che fattacci. Che la mia riflessione, facendo la scaletta di questa trasmissione, pensando a questa trasmissione, è stata: ancora una volta dobbiamo raccontare nella nostra trasmissione come la rete ha vissuto degli attacchi terroristici. Sì, non possiamo non parlare. Tra l'altro questa volta, non so se hai notato, io personalmente l'ho notato, per cui lo racconto, si iniziano a vedere pesantemente già nella nostra vita di tutti i giorni dei fatti cambiati. Non so se hai visto in metropolitana più polizia. Io questa settimana sono andato a un concerto, c'era una lunga coda con Metal Detector. E si è parlato proprio qui a Radio 24 dell'ipotesi, speriamo remota, ma che addirittura gli europei di calcio abbiano delle partite a porte chiuse. Insomma, si inizia a vedere degli effetti sulla nostra vita quotidiana anche qui, per strada, ovunque, no? Prima sembrava, è partito da molto lontano e si è sempre più avvicinato. Anche perché molte di queste cose le vediamo tutti i giorni su Twitter, Facebook e dintorni. Allora, partiamo con quello che è successo questa settimana. Ancora una volta, dunque, le immagini, e questo è l'audio delle immagini che ci arrivano qualche minuto dopo, qualche istante dopo, quasi in tempo reale. Quasi in tempo reale, hai detto giusto, quasi in tempo reale. A volte questo fa commettere degli errori. Questa settimana, per esempio, un video che si riferiva a un attacco terroristico a Mosca è stato per un po' preso da alcuni media come un video che invece si riferiva all'attacco che era all'aeroporto di Bruxelles. E fammi fare un complimento personale ai colleghi di Sky TG24 che non solo hanno corretto l'errore, ma hanno anche pubblicato un tweet, non hanno cancellato il tweet con l'errore, grande lezione, hanno pubblicato un tweet nel quale si scusavano per l'errore, segnalando l'errore, quindi si fa così sulla rete, si chiede scusa, si corregge, si esplicita quello che è stato sbagliato, proprio perché in futuro un errore non ritorni a essere realtà. Sì, perché purtroppo o per fortuna sulla rete non è detto che quello che è rimasto solo un istante non sia stato conservato, non ne esatto rimanga traccia. Se però ci sono dei danni, ne parleremo anche dopo. Social network, rete e dintorni riescono invece a essere molto utili anche in questi fatti qui, ne parleremo meglio dopo. Ma quando non funzionavano i telefoni in alcuni momenti durante gli attacchi a Bruxelles, che ci sono stati poi anche alla metropolitana, funzionavano invece i social network e quindi era più facile connettersi in altri modi. Ma c'è un'immagine questa settimana che è stata presa come simbolica anche dal punto di vista polemico, ma non solo. Federica Mogherini, sì, Melody Pesk, il ministro degli esteri e della difesa europea, in sostanza, ha avuto una reazione perfettamente umana, ma forse per qualcuno fin troppo umana. Partiamo dalle immagini che vi mostriamo alla radio. We are united in not only suffering our victims, but also reacting to these acts and preventing radicalization and violence together. I will stop here, you will understand this. Today is a difficult day. Allora, Federica Mogherini stava intervenendo su quello che è successo appunto a Bruxelles. Ha avuto un momento di grossa commozione, era in Giordania. ha interrotto la conferenza stampa. Stava poi appunto parlando in pubblico e a un certo punto ha detto: scusate, sì, mi devo fermare. Ha pianto, ci sono state le lacrime. E allora c'è chi ha detto che questa è un'immagine simbolo perché rappresenta la capacità di un continente, diciamo proprio di una cultura europea, di ancora commuoversi e venire meno alle regole della ferrea e cinica politica che invece indurrebbe, imporrebbe un contegno, una forza in pubblico. E c'è invece chi dice è proprio perché è simbolico dell'Europa, l'Europa anche con queste lacrime mostra un eccesso di debolezza. Ad esempio le parole di Guido Bertolaso. Quelle lacrime? Trovo imbarazzante che il ministro degli esteri dell'Unione Europea si metta a piangere dopo un attentato del genere. Il ministro degli esteri dell'Unione Europea, come tutta la Commissione Europea, deve far vedere appunto che noi non abbiamo paura, che noi non ci facciamo intimidire, che noi anzi vabbè, vogliamo quindi è d'accordo reagire con Giorgia Meloni su assolutamente questo. Assolutamente sì, come al solito. Vabbè, ma dai, adesso così diciamo diranno che sono maschilista, anche se Juncker, no, ma non c'è bisogno anche di se Juncker avessi, si fosse messo a piangere, diciamo, avrei detto quindi, che veramente no, una scena, è una scena imbarazzante. Gli europei vogliono essere rassicurati dai loro leader. Credo fosse a Omnibus questa reazione. Sì, si sentiva Gennaro Migliore, mi pare. Di Bertolaso. E per una volta si sono trovati d'accordo Meloni e Bertolaso. No, per una volta. Erano, no, nel senso, prima la di scorsa Roma, settimana, tanto certo, però la scorsa settimana sì, certo, avevamo parlato delle loro differenti posizioni. Questa volta si sono trovati d'accordo contro la Mogherini. Insomma, la politica è fatta di lacrime storiche. È successo in passato, si ricorda Occhetto, ma anche in altre circostanze. C'è del vero in entrambe le posizioni, nel senso che, come dire, esprimere sentimenti umani può avere anche un aspetto politico importante. Se però resta solo il problema è quello che viene dopo. Se dopo vengono dei fatti, per esempio la stessa Mogherini ha fatto un'intervista a Repubblica il giorno dopo in cui diceva delle cose sacrosante, altre meno. Per esempio, lo dite dal 2001, mettete in comune le informazioni di intelligence e dall'attacco dell'11 settembre 2001 che gli europei fanno un vertice straordinario al mese, si ritrovano e dicono stavolta lo facciamo, mettiamo le informazioni di intelligence in comune. Ecco, se oltre le lacrime impone a che lo facciano questa cosa qua, forse si giustificano entrambi gli aspetti, quello umano e quello politico. Devo dire che in tutto questo, ancora una volta, è sempre di attualità il dibattito sul femminile, perché e se a piangere no, fosse stato un uomo? No, ma non credo, questa volta non credo, non credo. Il problema so è le lacrime io. Questa volta, c'è l'idea che in politica non si possa più frequenti gli uomini sì, in conduzione, esatto. Sì, più diventi orrendamente femminista. Una trasmissione con solo co-conduttrici donne. Ci penserò per il prossimo ma anno. Ma non è detto che sia molto facile. Non lo so, non lo e so. Roberta infatti in regia dice, oh mamma mia. Non è vero, sta dicendo che è il momento di dare la linea al traffico. Allora, direi che torniamo sì. su questi ci su, torniamo dopo le informazioni sulla viabilità. A tra poco. Radio Tube. And we're all here for the same reason. I'm hoping you will come to be entertained by me. I'm here to entertain you, so we're all united. So that makes us much better than fuckers. You're on your own, you fucking loners. E questa era Adele, ha fatto clamore Adele che in un suo concerto all'O2 Arena di Londra ha attaccato i terroristi dicendo siamo tutti qui per la stessa ragione, siete venuti per sentirmi cantare, io sono qui per farvi divertire, così siamo tutti uniti e questo ci rende migliori di quei parolaccia. Non è l'unica persona che ha espresso il proprio disappunto, la propria rabbia, anche in maniera colorita in questi giorni, non solo per quello che è avvenuto ma anche per come si raccontava quello che stava avvenendo. Ma ti riferisci a Enrico Mentana? Mi riferisco a Enrico Mentana. Non è stato proprio rabbioso, semplicemente a un certo punto ha un po' interpretato l'opinione diffusa che spesso noi proviamo quando di fronte a fatti di questo tipo si sentono un po' frasi di circostanza. Purtroppo le alte cariche dello Stato certe frasi le devono dire, certi comunicati li devono fare. Ovviamente noi ogni tanto diciamo sì, vabbè, abbiamo capito, però magari oltre le parole facciamo anche qualcosa. Per esempio Mentana si è arrabbiato, insomma, ha detto vabbè, sì, lo sappiamo, alla sua giornalista. Vediamo come. Il presidente Grasso ha parlato di un attacco simbolico e strategico, lo stesso ha fatto il presidente Boldrini, la presidente Caterina, ce le risparmiamo, no? Tanto sono, con tutto il rispetto, sì, frasi che purtroppo in queste circostanze sempre vengono pronunciate, è doveroso forse che lo si faccia, possiamo però darle tutte per lette. Ce le risparmiamo, mi è piaciuto molto, possiamo darle tutte per lette. È diventato subito virale questo video perché esprime una cosa che noi spesso sentiamo. Sì, verissimo. Quindi... A proposito di virale, adesso siamo riusciti... Allora, adesso qualche risatina ce l'ha strappata anche nel dramma. Il meme, certo. Il meme, cioè, come spiegare il meme? Ormai i meme sono quei giochetti John Travolta... visivi che... che cominciano a diffondersi, sì, in continuazione su internet. Sì. Tutto parte dalla foto di Salvini con il... Secondo te ce l'aveva il cellulare o no? Perché c'è anche questo mistero nel frattempo, no? Mm. Salvini, c'è una foto, sì, con lui tiene la mano sulla guancia destra. Sì. Ah, c'è tutta un'indagine per capire se c'è il cellulare lui o no. Lui ha detto che modello ha di cellulare. Sì, comunque, però era molto piccolo, per cui non si vedeva evidentemente. Salvini che è stato fotografare in varie occasioni la mattina degli attentati, perché Bruxelles, lui stava a Bruxelles. Stava tornando. Ma non solo, ma che è anche intervenuto in trasmissioni televisive. Quelle 7, 8, sì, 15 contemporanee. Anche come testimone quasi un giornalista. L'ha detto lui. Sentiamo. Quasi. Lei, immagino, è impossibilitato a lasciare Bruxelles come tutte le persone che ci sono in questo momento. Se lei sarà disponibile, magari la risentiremo dopo. Grazie Salvini. Grazie a voi. L'unico problema è che i telefoni, in questo momento, i telefoni privati cellulari non funzionano, siamo scollegati dal resto del mondo. WhatsApp non ce l'ho, quindi ho solo il vecchio e caro telefono fisso, e adesso, salutati voi, io metto faccia fuori dal Parlamento perché torno a fare il giornalista. Beh, ne sono successe tante questa settimana. Tante le abbiamo viste e vissute attraverso i social. Eh sì, media. Lui dice, appunto, sì, non ho WhatsApp, quindi non posso mandare. Il nostro inviato, per esempio, l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, ha mandato dei video che ha fatto a Bruxelles il giorno dopo attraverso WhatsApp alla nostra redazione, e subito sono finiti sul sito del Sole 24 Ore. Ma devi sapere... Sì? Tu ci sei già? No, non lo so. Su Telegram. Voglio capire. Vogliamo capire un sacco di cose. Tra l'altro Telegram, leggevo oggi su Lettera 43 un articolo che si dice, ieri, che è molto usato, purtroppo, appunto, da chi deve poi cancellare le tracce delle proprie conversazioni, per esempio i terroristi. Allora, vogliamo parlare di queste novità dei social network? Sembra che ogni tanto tocca tornare a fare il punto sulla situazione, sì, perché la situazione è... Sì, c'è qualcosa di nuovo e qualcosa che torna. Ne parliamo con... Docente di social media e marketing digitale, espertissimo di questo tipo di materie, Luca Alagna. Buonasera Luca. Buonasera a voi, grazie di avermi ospitato. Grazie a te per essere con noi. Luca, sembra sempre che il punto sulla situazione sia da fare periodicamente, perché c'è sempre... Purtroppo nuovi fattacci da raccontare, ma da raccontare sempre in modi diversi. Eh sì, tempi duri per chi come Salvini ha soltanto la linea telefonica a voce, visto che, insomma, che si perde anche gran parte del resto. Durante gli attentati, in questo caso a Bruxelles, è successo qualcosa di simile a quelli degli attentati a Parigi a novembre. Addirittura il governo ha chiesto direttamente agli abitanti o a chi, insomma, era fuori come parenti e amici di parlare soltanto, di comunicare attraverso WhatsApp, Facebook, Twitter, anche li hanno anche citati. Un altro livello di utilizzo è stato quello che ha attuato Facebook, il cosiddetto safety check, quel tool che forse avrete visto tutti, un po' sì, tutti quanti, ci diceva se i nostri amici nell'area di Bruxelles, o che si erano registrati a Bruxelles o abitano a Bruxelles, stavano bene. Questo tool era stato utilizzato solo durante le catastrofi naturali e nell'ultima volta anche a Parigi, bisogna dirlo. Ecco, in questo caso c'è stata la possibilità per tutti, per chiunque, di poter dire agli amici e parenti su Facebook che si stava bene, che si faceva un check. Questo non è stato male come possibilità. Un'altra è quella invece, modalità completamente diversa, che ha offerto Twitter, cioè quella di sfogarsi, un po' come Adele, sì, abbiamo sentito prima. Non a caso una delle immagini che abbiamo visto scorrere di più era quella delle patatine fritte che simulavano un dito medio. Sì. La ricorderete? Quella era una vecchia pubblicità di Burger King, se non erro, che è stata riutilizzata proprio perché appunto il Belgio è il paese per eccellenza delle patatine fritte e poteva simulare, ecco, in qualche modo la risposta ai terroristi. Quindi c'è stata un'ondata, diciamo, emotiva su Twitter e anche di aiuto, di richiesta di aiuto, di offerta di aiuto nelle case, quando ovviamente non si poteva magari tornare nei propri luoghi. E poi le foto con le bandiere, come l'altra volta. Senti, sì, Luca, negli ultimi giorni si parla molto e molti iniziano a scaricarlo anche in Italia, insomma arrivano le notifiche di è su Telegram Tizio e Caio. Sta arrivando Telegram, ci spieghi quali sono le differenze rispetto a WhatsApp? Perché molti che avevano già WhatsApp iniziano a usare Telegram? Telegram è davvero il gingillo del momento, si può dire, però ha i suoi perché. Il suo concorrente effettivamente sembrerebbe WhatsApp, era fin dall'inizio WhatsApp. Telegram mette l'accento sulla privacy e la sicurezza. Telegram è stato fondato da un duo di fratelli russi che erano gli stessi fondatori di un social network che si chiama VKontakte, adesso si chiama VK, uno dei più grandi, anzi il più grande della Russia, che sono fuggiti da quel paese. In qualche modo loro hanno dichiarato che non sarebbero più tornati proprio per motivi di sicurezza, di privacy, connessi al regime Putin, eccetera. Hanno creato questo social network che ha la possibilità di fare delle chat protette dalla crittografia, delle chat segrete, addirittura chat con messaggi che scompaiono a tempo, e questo ha attirato moltissima gente all'inizio. Successivamente però Telegram non si è fermato a questo e ha esteso i suoi servizi, le sue funzionalità anche per comunicare contenuti soprattutto a piccole nicchie e piccole community. La creazione del canale, stai dicendo? Esattamente, non c'è soltanto poi il canale, comunque il canale è questo, un vero e proprio flusso di messaggi pubblico, con un indirizzo pubblico, quindi diffondibile su ogni social network, e chiunque è iscritto riceve con le notifiche, esattamente come se fosse un messaggino da qualcuno, i messaggi, che possono essere anche contenuti, per esempio immagini, video, contenuti di ogni tipo, addirittura più di un giga di file si possono inviare in questo modo. I canali stanno diventando molto popolari per questo motivo, anche per un dettaglio non da poco: è possibile programmare dei cosiddetti bot, cioè dei programmi automatici in grado di gestire il canale e il flusso di informazioni. Questo ne fa, diciamo, una grande differenza con WhatsApp. Potrebbero essere utilizzati sempre di più, ad esempio, dai mezzi di informazione anche tradizionali, che vogliono diffondere le informazioni anche con questa piattaforma. Qualche giornale ci sta già provando. Sì, ci sta provando qualche giornale, ci stanno provando anche trasmissioni televisive. Una delle ultime che mi ricordo è Piazza Pulita della 7, che lo usa. Però bisogna fare attenzione che a non replicare gli stessi contenuti e le stesse identiche informazioni che si trovano altrove su Telegram, perché chi è su Telegram e lo segue e quindi decide in qualche modo di essere disturbato, diciamo, da una notifica, da un messaggino ogni volta che parte un contenuto, evidentemente vuole qualcosa in più. Vuole qualcosa di speciale. Giusto. O qualcosa di, diciamo, di unico. Beh, fronte interessantissimo. Luca, torni a trovarci a RadioTube, perché abbiamo un sacco di cose ancora da chiederti. Ti possiamo disturbare di nuovo? Magari sulla politica, Telegram e la politica, ecco, le newsletter, ecco, che ritornano. Dai, assolutamente, molto volentieri, grazie. Allora, io intanto do il tuo account di Twitter, perché se qualcuno ti trova, ti cerca, ti trova anche come chiocciola Ezekiel, con Z, esatto, e K. Sì. Grazie, grazie mille a Buona Luca Pasqua. Lagna per essere stato con noi, auguri. Grazie a voi, auguri anche a voi. Allora, a presto a Luca Lagna, noi ci ritroviamo tra pochino, una pausa piccola, poi ci troviamo ancora insieme con RadioTube. RadioTube. Beh, Daniele, è un sabato particolare. Beh, questo. Sì, è il sabato di Pasqua. Sabato santo. Quindi in tanti sono in giro le vacanze, per farsi un bel weekend lungo. Per pare tanti quest'anno qualcuno in più dell'anno scorso, mi pare il 4-5% in più. Beh, insomma, un buon segno finalmente. Però per tanti anche un fine settimana importante, perché la Pasqua per molti ha ancora un importante senso religioso. Soprattutto direi. Se no non ci sarebbe la Pasqua. E quindi devo dire che quest'anno noi che parliamo tanto di social network, non possiamo non festeggiare la Pasqua anche con delle belle novità che riguardano Papa Francesco. Io te l'avevo detto che Instagram era in ascesa. Papa Francesco ha aperto il suo account su Instagram, il social network su cui si possono condividere foto e immagini. Il nome dell'account papale è Franciscus e le riproduzioni sono quelle del servizio fotografico dell'Osservatore Romano. Le notizie di stampa, appunto, i servizi televisivi che raccontano che il Papa... ma vedi come sei giornalista professionista. Io voglio fare concorrenza a Roberta. Adesso ti faccio sentire dal microfono. A Roberta in regia. Che cosa ci fai sentire? Sì, ecco perché... Senti. Ci stai facendo sentire gli audio di un... Non si sente praticamente perché Roberta è svenuta. Ha perso il posto Per colpa mia. Perché sta cercando di farci sentire spiegando in diretta dal suo iPad. Ha fatto un video il Papa per dire che vuole perseguire e raccontare, vivere la via della misericordia anche attraverso il social network Instagram. L'Instagram. Quindi i social network servono, non sono cattivi. Non sono cattivi, allora io devo dirti la verità. Una delle persone che mi piace di più frequentare su Twitter, faccio proprio un coming out mio personale, proprio personale privato, è un sacerdote che è bravissimo, che è attivissimo sui social network con, non lo so, secondo me che lui dà un valore proprio speciale all'uso di Twitter, è Don Dino Pirri, che è parroco della parrocchia Madonna della Speranza di Grottammare e che abbiamo in diretta con noi, Don Dino, ciao Don Dino! Ciao, buon pomeriggio, diciamo anche quasi buona Pasqua, dai! Quasi buona Pasqua, sì. Allora, no, facciamo, diciamo buona Pasqua che tutti si possono tenere in tasca e tirare fuori domani mattina o stanotte. Sì, ma poi per i cristiani c'è il triduo della Pasqua che inizia, sono tre giorni, noi siamo proprio nel pieno, quindi buona Pasqua a tutti gli effetti. Bene. Grazie. Don Dino, io l'ho detto, l'ho dovuto confessare subito che secondo me tu dai nei social network così un contenuto speciale che è quella spiritualità che tu riesci a far viaggiare, ad esempio, via Twitter. Forse perché sei della generazione giusta. Non lo so, io mi ci sono trovato dentro e quindi quando mi chiedono di parlarne, più che un esperto, io mi sento un artigiano che c'ha le mani là dentro e a volte fa anche danni, tra l'altro. Per un prete dovrebbe essere anche abbastanza semplice comunicare, perché abbiamo una bella notizia, diciamo, che è il Vangelo, e forse dobbiamo solo sperimentare quale può essere lo strumento più adatto. Siccome Gesù ci dice che il mondo non c'è, è sempre bello, allora qualsiasi strumento forse vale la pena utilizzarlo. I parroci, i sacerdoti più anziani ti hanno chiesto qualche volta, insegnami, perché... Una volta c'è stato un prete, me lo ricordo, molto anziano, che mi avvicinò e mi disse, preciso, non della mia diocesi, perché, no, è vero, no, chiariamo, di una diocesi campana, ma lui non aveva, allora io provai a dargli i primi consigli, poi mi ha fatto vedere il suo account, aveva zero follower, non seguiva nessuno e non aveva scritto nessun tweet. Gli dissi, padre mio, come facciamo? Neanche lo Spirito Santo, insomma. E ci voleva però, un cammino lungo. Però la buona volontà c'era. Invece tu ne segui solo 328 e già 12.781 follower. Sono sì. Tanti. Ma si può immaginare quella di Twitter, dei follower di Twitter, come una comunità? No, non del tutto. Cioè è una comunità, io non amo definirla virtuale perché di fatto ci sono delle persone dietro, non sono dei fantasmi. Quindi siamo nell'ambito della realtà, però con delle modalità leggermente diverse di quelle di una comunità. Una comunità ha bisogno di un contatto, di un rapporto, anche di una relazione anche fisica, personale. Twitter per me è un primo contatto, un primo incontro, uno spunto. A volte qualcuno mi chiede anche, ma ci si può confessare su Twitter? No, assolutamente no, insomma, no. No, però io quando ho qualche dubbio, magari io ti scrivo. Ma in sai. Direct message, però. Sì. Vabbè, in direct message è un altro discorso. Cioè io glieli scrivo, sì. Perché ti conviene andare a Grottamare, che è bellissimo. È bellissima Grottamare, è favolosa. Ecco, avete capito allora qual è la differenza tra il social sì. network e la comunità? Insomma, io Grottamare te la posso raccontare, però se la vieni a vedere è tutta un'altra cosa. Però il fatto che persino il Papa, diciamo, scelga questa via di comunicazione, perché anche lui la considera una buona strada per evangelizzare, per dirla comunque quella buona notizia, no? Per cui è uno strumento, come dire, passami il termine, persino di lavoro in un certo senso, di missione. Sì, anche, ma il social network è una piazza. La prima comunicazione della fede, San Paolo, la fa nelle piazze, gli apostoli la fanno nelle piazze. Quindi se abbiamo una bella notizia da dare e magari invece di trasmetterla attraverso le prediche o le teorie o le dottrine, cerchiamo di comunicarla attraverso anche quello che è la nostra vita, la nostra riflessione, le nostre impressioni guardando un po' il mondo, ben venga, no? L'importante è non confondere però il social network con il pulpito. Sì. Quando io, un conto è quando io faccio la predica in chiesa e un conto è quando sto in un social network. Le regole sono leggermente diverse. Nel social network, come in piazza, io mi sottopongo al giudizio di tutti, al commento di tutti, e devo starci anche quando i commenti non sono belli. La cosa però bella dei social network è che se tu rispondi o sei cortese, soprattutto quando ti attaccano, sempre il tono della conversazione diventa migliore. Gli effetti positivi, secondo me, dei social network. E poi bisognerebbe anche cercare di non usare il social network per convincere l'altro. Certo. Ti scrivo la mia esperienza, tu scrivimi la tua e le mettiamo vicine e ci confrontiamo. Poi se riusciamo facciamo qualche passo insieme. Questo è lo stile però anche, dovrebbe essere lo stile della Chiesa. Bello. Vero, vero, che bello. Dondino, ti chiedo di due hashtag. Cancelletto. TV doppia come Twitter, QR come Quaresima 16. Seguendo questo hashtag si vive passo a passo la Quaresima, è importante? Sì, io non è che voglio rivendicare le paternità, ma rivendichiamola. Ma rivendichiamola. L'hashtag di Quaresima e di Avvento, poi magari ci avranno pensato anche altri. Io l'ho visto comparire per le prime volte a opera di un gruppetto di cinque preti, tra cui ci sono anch'io. E tu, Don Dindan, Don Cristiano Mauri, Don Tommaso. Vabbè, ma se perché sono tutti professionisti dei social, loro sono si sminuiscono, ma sono veramente ma bravi. Noi abbiamo un gruppetto su WhatsApp pure di cinque preti e sinceramente è meglio che nessuno mai sappia che cosa diciamo. Allora usate Telegram. Dovete usare Telegram. È più sicuro. Sì. Beh, nel gruppetto c'è anche una suora. Non, nel gruppetto di WhatsApp no, non l'abbiamo messa perché ci vergogniamo. Però nella combriccola, diciamo, di Twitter c'è anche Suor Chiara, che è una suora Chiara. Deliziosa, perché è proprio suora. Tu la vedi, è proprio una suora, ma ha una carica, una dolcezza e una simpatia unica. E con questo hashtag accompagnate un cammino? Sì, proviamo a sintetizzare in 140 caratteri, meno poi quello dell'hashtag, l'omelia quotidiana e anche tutto quello che può essere una riflessione per quel giorno di Quaresima, in avvento, quanto avvento. Io voglio pure dire una cosa, che da quando ho iniziato a usare Twitter ho diminuito tantissimo il tempo delle omelie, faccio le prediche brevissime. Il dono della sintesi è sì, sì. E poi non è che sono contenti i parrocchiani solo perché sono brevi, ma anche perché si capiscono di più. Ecco, questo è un grande insegnamento pure per noi giornalisti, dovrebbe essere, a mio modo di vedere. E invece ho un'ultima curiosità, l'altro hashtag che adesso qui sorrido parroco di story, più, no? Parroco Story, sì. Certo, quando tu racconti un po', sì, diciamo, il dietro le quinte, Marta, il making of. Leggi proprio tutto di quello, certo, che c'è. Altro, certo, che Don Matteo. Certo, io sono più per Don Dino. Sì. Parroco Story ci fai veramente molto sorridere. Parroco Story, sì, è proprio un racconto della vita del parroco che si trova a combattere con il gatto che è a casa e che anche adesso mi sta tormentando una mano perché è gelosissimo che parla al telefono, oppure il parroco Story è il parroco che la sera va a chiudere la porta della chiesa e pensa agli incontri che ha avuto durante la giornata e passando davanti al tabernacolo magari qualche persona la presenta lì a Gesù, oppure sono tutte le frescacce che un prete può fare nella sua giornata, insomma. Don Dino, che meraviglia averti avuto. Allora, io devo dare due segnalazioni. Una, che è il tuo account di Twitter, che è @DDinoPirri, di come Don Dino Pirri. E poi 19:30 su TV 2000, il Vangelo della Domenica, che è commentato proprio da Don Dino. È una anche mia di segnalazione, andata a Grottammare perché è un posto stupendo. Ecco. Sì, sì, sì. Senti, ma posso dire una cosa? Magari il Papa ascolta Radio 24 e mi retta. Ma senz'altro, noi speriamo. Ma lancio questo appello. Bellissimo il Papa su Instagram, ma se prendesse lui lo smartphone e facesse lui le foto, così il mondo visto da Papa Francesco, mamma mia quando sarebbe più bello. È vero, sarebbe una cosa veramente bella. Don Dino, grazie per essere stato con noi, buona Pasqua, buona Pasqua a voi e a tutti. Un abbraccio, a presto Don Dino. Se il Papa ci ascolta, c'è un po' di silenzio, è sceso dai, un po' allora di silenzio. Facciamo una cosa, riprendiamoci, facciamo perché una breve pausa questa, per il traffico, sì, traffico. Proprio andiamo, il problema del traffico. Esatto, torniamo proprio alla realtà e poi chiudiamo. Una breve pausa e poi chiudiamo con Radio YouTube. Radio Tube. This is a new day. Es un nuevo día between our two countries. È un nuovo giorno tra i nostri due paesi. Beh, si è fatta la storia ancora in questa settimana con l'incontro a Cuba. Si è fatta la storia. Adesso, sai, quando che poi qualcuno, liberano tutti qualcuno ha detto si è fatta la storia del Novecento. Del Novecento, cioè esatto. Che in Europa... Non è stupido come... No, che qualcuno ha commentato, in Europa purtroppo questa settimana si è fatta la storia del 2000. Sì. E dall'altra parte dell'oceano era ancora comunque un cascame della storia, sì, del Novecento. E peraltro non è ancora del tutto finito, perché non è che a Cuba, siccome c'è stato Barack Obama, sì, si stia come in Svizzera. Quindi cerchiamo di capire che, certo, la visita è storica, speriamo sia un primo passo. Comunque tu vuoi sempre parlare di Obama, perché a te non interessa l'aspetto presidenziale, ragazzi, geopolitico. Ragazzi, anzi io pregherei Roberta un attimo in regia di agevolarmi una musica. Balli. Parliamo di Obama. Balliamo io e te. No, guarda, non è il caso, io sul tango sono scarso. Sai perché? Perché abbiamo le cuffie, poi il ma era proprio un tango? Per le cuffie. Fammi sentire, non è tango secondo me. Ma con chi balla soprattutto? Balla con una bellissima ballerina con un vestito di lamè dorato. Ma guarda, io per un ballo con Obama cosa darei? Cosa daresti? Parliamone. Ma guarda, visto che è, qui è si così offre. Elegante, è così. Sì. Che ma deve uomo, fare il ragazzi. Presidente, perché deve essere un attore? Cioè guarda che questa presidenza. Vabbè, a parte il fatto che ha questa ambiguità non... da 8 anni. Adesso fammi capire. Se un attore ha fatto il presidente degli Stati Uniti. Un presidente adesso. Perché un presidente non può fare un po' l'attore? guarda che secondo me potrebbe persino avere, cosa fa dopo uno come Obama, ma che è giovane, ma secondo me cosa fa? Ma no, farà conferenze, va bene, conferenze. Poi cosa fa? La moglie si candida da qualche parte, secondo potrebbe te potrebbe fare un po' l'Al Gore? Ah beh certo, dice anche lui preparare la candidatura la, di Michelle. Tra l'altro sto guardando lì House of Cards, una roba pazzesca quella che lo, vabbè comunque sì, però non al è, tango non erano arrivati neanche in House of Cards, non è detto perché non è che va, ma con la moglie ha ballato diverse altre volte. Sì, ma poi vabbè, Michelle, baciato, sì, ma poi Michelle ha dimostrato di saper ballare, non è geloso, cantare. No, ma, non no, si ma sa. Anche perché secondo me io Michelle, cioè secondo Michelle io non la farei arrabbiare, cioè io poi non mi metterei contro Michelle. Temena. Sì. Cioè lui è un gran figo bellissimo, però e lei io è una di Michelle cattiva rispetto che mena, ma no. No, ma no, io l'adoro Michelle, ma poi e poi adoro le ragazze, perché non so se hai visto la foto di le una ragazze, delle due sì. che riesce a parlare con Ryan Gosling, attore sì. fighissimo, pure lui. E l'altra che le fa i due pollici in su come per dire grande, brava, cioè due sorelline devono fantastiche. Governare il mondo e a tutto il mondo piacciono perché sono fighi, ma guarda che è preoccupante sta cosa. Ma no, ma no, ma no, dai, come... è bello dimostrare un po' di umanità. Sì, tutti dimostrano umanità. Tutti, ma che? Ci sono per esempio no. delle conduttrici italiane algide, gelide da sempre che non trasmettono, per esempio, ma anche delle radio, non anche le conduttrici radiofoniche, fredde, non perché sono lì della Brianza, fredda, che non, guarda, non sanno mai esprimere. Guarda, un'altra, se questi per esempio, muri potessero parlare. Una conduttrice di Pavia, quella lì, figurati mai se può esprimere un'emozione. Potrebbe mai esprimere un'emozione Maria no. De Filippi? Secondo Vuoi me la risposta? No. No. Eccola la qua. La risposta è no. Era pieno di cose buone. Proprio quel cuore che ci dava un amore immenso e che palpitava forte solo per te fin da quando era una ragazzina. Mamma mi manca da morire. Io ti chiedo scusa. Non è che è un fazzoletto, per caso. E dopo che Maria De Filippi ha c'è posta per te, ha pianto. Io Marta direi che possiamo. Cagnola, ma adesso io pianto. Alla YouTube deve. Guarda. Dai, se c'è... Beh, scusami, inventiamo qualcosa. Leggiamo di me non ce n'è. Leggiamo non farebbe... una poesia, una non canzone di Valerio Scanu. Allora. A più piagnucolona di me non farebbe notizia, perché io sono proprio piagnona. Sì, io tutti i giorni. Non piano. Ci credo. In continuazione. E poi lei comunque era Mary. era vera, ma sì, dai. Ma sì, dai. Cioè, a volte una cosa non ha bisogno di fingere. Farla finta che sì, farla non finta. Ha bisogno di fingere Mary De Filippi, tanto più che poi era la chiusura di C'è posta per te, adesso arriva Amici, quindi Amici, c'è chi via, boom, col botto. Sì, con Morgan. Per esempio, quindi con le botte. Quindi praticamente adesso una cosa che avrebbe potuto, adesso io voglio provare a farti piangere con una cosa che però invece fa tanto ridere. No, ma io guarda... perché a me ricorda Maddi Cagnola da piccola. Ma io ero bionda da piccola. Sì, però se guardi lo sguardo e lei che prova a leggere la poesia, sembri tu da piccola. Allora, io sono cercatelo il video. Sono impazzita per questa per questo video. Allora, sì. È una bimba di 3 anni Maddie. Che si chiama Maddi. Ha un papà fighissimo che si chiama Andrea, fa il prestigiatore, anzi il prestigiatore. Il prestigiatore. Notare il gioco di parole, doppia T. Allora, lui recita una poesia che è Il lonfo di Fosco Maraini. È sì. una bellissima poesia che Gigi Proietti, metasemantica, sì. metasemantica, spiegamelo, cioè fatta sarà di parole. Nella tua tesi, immagino. No, cosa vuol dire no. metasemantica? È fatta di parole che non hanno senso in sé, ma che raggiungono un senso una volta recitate. Ah, tipo come Dario Fo, cui facciamo tanti auguri peraltro, tipo il suo mondo del Gramlò. Una sorta di Gramlò. Ecco, Andrea Paris, il papà, è rimasto talmente folgorato dalla che l'ha piazzato sui social. Che l'ha messo sui social. Allora, Maddi è Maddi il Cagnola. Mio... No, si chiama Maddi Paris. Sì, Paris. È il mio nuovo mito perché ha 3 anni, secondo me, somiglia. È straordinaria. Sentite. Eccola qua. Il lonfo non va terca. Il lonfo non batenca. Negruisce. E molto raramente barigatta. E molto raramente barigatta. E quando soffia il bego? Quando soffia il bego? Abisce. Ma tu non ride? No. Tu non ride? No. Ricominciamo. Il lonfo. Il lonfo. Il lonfo non batenca. Il mostro non batenca. Negruisce. Ne urinte. È molto raramente barigatta. Molto la baretta baricanta. Ma quando soffia il bego? Ma quando soffia il bego, vai. Quando soffia il bego? Abisce, bisce. Abisce, bisce. Sdilenca un poco. Diventa poco. Ignagio? Ignagio. Sarchipatta? Cappicappa. È frusco il lonfo? Il lonfo è morto. È pieno di lupinia? Solo che poi a questo punto lei si rende conto che il papà ride. Ma tu non ride. Pieno di lupinia. La ride anche lei, è fantastica. Lupinia. Adesso lo ripetiamo tutto. Io sono pazza di Barigatta. Barigatta, il lonfo. È fantastica, è fantastica. Salutiamo. Che non sai se ridere o se commuoverti perché... Ma poi scusami, se tanto è un gramlò, ha ragione lei. Ma sì, lei, fatti, dai, lei appunto, cioè non è che quello è del papà è giusto suo. E quello delle di Maddi è sbagliato. Maddi ha interpretato. Un momento più bello quando si arrabbia. Ma tu non ride. Tu però. Non ride. Però dopo capisce che anche lì lei diventa poi attrice. Dice no, ma se rido anch'io prendo in mano la situazione. E una cosa in cui ero debole divento forte. No, è simpaticissima. Ci ha detto Otto. Allora, cara Maddi, allora sei il mio nuovo mito. Se il papà vuole ci ascolta, io voglio venire a giocare con te. E se posso venire a recitare le poesie con te, vengo. Ciao Maddi. Scegliete. Allora, c'è il momento dei saluti. Dei saluti e degli auguri di buona Pasqua. Sì, facciamo tanti auguri, ma ci ritroviamo sabato prossimo. Sabato prossimo, sì, puntuali, alle 15 puntualissimi, per il sabato sempre, del villaggio. Ebbene sì, e poi alle 17 per RadioTube. Quindi buona Pasqua a tutti. Io ringrazio Cristian Goldoni, redazione, e Roberta, che è stata in regia con noi. Anche. Sì, che faccia sempre, sì, come sempre, molto paziente. E ci ritroviamo sabato prossimo. Auguri.